Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Vabbè, siamo pronti, ma che chitarra ha detto che porta? Una chitarra particolare, con un suono veramente... Ma come va, col pick up oppure col microfono? C'ha un pick up diverso dagli altri, dalle altre chitarre acustiche. Ha detto così? No, ho visto la foto. Hai visto la fotografia? Ho visto la foto, sì. E fai bene. Buonasera a tutti, eccoci qui, siete in contatto con il soundcheck di Radio 24, siete in contatto con il Groovemaster Studio, è presente il nostro ingegnere del suono Riccardo Bomarzi, che mi stava istruendo sulla strumentazione che porterà qui nella seconda parte del soundcheck, ovvero dopo l'informazione di Radio 24, quella delle 20, il meraviglioso chitarrista Antonio Forcione. Io apprezzo Antonio Forcione da tanti anni e purtroppo mi è capitato pochissime volte di incontrarlo, perché da oltre 30 anni vive e svolge la sua professione a Londra. E caro Francesco Tromba, anche tu sei un suo fan accanito. Sì, sono un grande fan, mi sono imbattuto per caso in questo ultimo lavoro di Antonio Forcione insieme a Sarah Jane Morris. Mi è piaciuto dal primo ascolto veramente, perché quando sono riuscito a il messaggio che c'è appunto nei dischi, in questo disco, quando fanno le cover e sembrano delle canzoni loro, secondo me lì veramente ti apre un mondo, nel senso che capisci il lavoro che c'è dietro. Il disco ti è piaciuto? Tantissimo. E dovevi dire questo, questo. Si è complicato la vita, sì, da solo, hai capito? Sì, infatti si intitola Compared to What, e non avremo qui nel Groovemaster Studio Antonio Forcione con la sua chitarra, ma avremo la chitarra di Antonio Forcione con Antonio Forcione e la voce di Sarah J. Morris, che è una meraviglia, che voce! Sì, e poi pensare che un autodidatta, veramente ti cadono proprio le braccia, cioè, perché un ti cadono le... A me non cadono le braccia perché è un autodidatta, a me sì, cadono le braccia perché è troppo brava. Ecco, è proprio quello. Una cosa naturale, questo suono, questa profondità. Secondo me ci sono dei cantanti, anzi delle cantantesse, che dovrebbero studiare un po' di più l'arte di Sarah J. Morris, per capire che è un po' come Lala Hathaway, no? Che cantano su quei registri con quella profondità, non hanno bisogno di miagolare lassù in alto con acuti e sovracuti, ovvero, sì, esatto, sono istintive proprio. Allora sì, lo ripeto, Sarah J. Morris e Antonio Forcione saranno nostri ospiti nella seconda parte del soundcheck. Riccardo Bomarzi ha già preparato il setup, perché ci sarà naturalmente la ripresa dal vivo, e voglio salutare anche il nostro Simone Calcagni, il nostro regista, che ha portato anche le telecamere e le sta sistemando, faremo anche le riprese video. Bene, direi però di dare il via alla musica, e nella prima parte, tanto per prendere tempo, direi di ascoltare alcune novità discografiche, fra quelle più interessanti che abbiamo ricevuto. Devo dire, caro Francesco, che il materiale che è arrivato nelle ultime settimane qui da noi è infinito. Sì, io siamo non so sommersi più dai dischi. Per favore, lo dico agli uffici stampa, non mandateci musica, perché non vorremmo far dispiacere nessuno, intanto, no? Sì, magari mandateci più gli MP3, perché ormai c'è proprio difficoltà a stanziare i CD in un posto. C'è anche la difficoltà, aspetta che mi è caduta, scusa Ricca, faccio io, tanto qua siamo live, e quindi ecco, raccogli la scatola, però mi è caduto il cartone con i dischi nuovi che sono arrivati, tanta roba e anche tanta roba bella. Allora sì, vogliamo andare proprio con calma, ok? Direi di partire con due brani, forse quelli più interessanti per me, poi tu hai il tuo gusto e fai le tue scelte, ma io ho scelto due brani di questo nuovo album di Music Soul Child. Come ti sembra la produzione? La produzione è, come al solito, impeccabile, fantastica, impeccabile, perché Music Soul Child, voglio dire, cioè, è uno che ha ricevuto diverse nomination ai Grammy Award, c'ha un suo pubblico da decenni in America. L'unica cosa che si può dire forse è che è un disco di 24 pezzi è un po' eccessivo, è troppo. Però ha voluto fare, secondo me è stato uno slancio di generosità, ha voluto fare un regalo ai suoi fan. Music Soul Child Benefits al soundcheck di Radio 24. Feel the Real è il titolo della nuova pubblicazione di Music Soul Child, un maestro della black music ormai da diversi anni. Nuovo album pieno di tracce, pieno di musica, però le idee sono sempre le stesse. Ecco, questo è quello che noto, che non c'è una varietà nella proposta artistica all'interno dell'album. E anche da un punto di vista melodico, i brani si somigliano un po' tutti. Credo faccia anche parte della stessa session del disco precedente, infatti anche la copertina è quasi identica, ci sono solo dei baffi in più alla faccina che c'era prima. Comunque noi abbiamo scelto i brani secondo me più adatti al nostro programma. Sì, forse sì, non sono quelli più adatti all'airplay radiofonico in genere, ma quelli più adatti al suono del soundcheck, perché noi ormai abbiamo identificato una nostra abbiamo una nostra identità. Sì, una nostra identità sonora. È vero. Allora, Music Soul Child, The Weather, in attesa, lo ripeto, che facciano il loro ingresso nel Groovemaster Studio Sarah Jane Morris e Antonio Forcione, ma sempre dopo l'informazione quella delle 20, quindi nella seconda parte. Andiamo con Music Soul Child, Bo Marzi, va. Soundcheck, il suono della musica. E questo è un album da acquistare, una produzione della Rope Dope, protagonista Shantae Khan, già vocalist degli Snarky Puppy, adesso si è messa in proprio, però all'interno della organizzazione di questa produzione ci sono molti elementi che collaborano sempre con Michael League degli Snarky Puppy. L'album si intitola Soul Empowered, il brano secondo me è splendido, intitolato The Sound. Questo è il Soundcheck Radio 24, lo ripeto, Sarah Jane Morris e Antonio Forcione saranno nostri ospiti fra pochissimo. Antonio Forcione è uno dei chitarristi più apprezzati del mondo italiano, ma ormai residente a Londra da oltre 30 anni. Sarah Jane Morris, neanche vi dico chi è perché dovreste saperlo. Se non sapete chi è Sarah Jane Morris, Bo Marzi, ma che lo dobbiamo dire noi, andatevela a cercare. Perché ecco, presentare una cantante con questa forza, con questo curriculum, con questa voce, diventa quasi imbarazzante per me. Poi se la vedete dal vivo, cioè, riuscirete a capire proprio l'essenza vera e propria della sua arte. Io la incontro spesso negli aeroporti, lo sai? Ci vedi, una viaggiatrice incredibile, viene molto spesso in Italia perché ha varie collaborazioni anche con artisti italiani. Allora, ci sono delle novità dal mondo della didattica, delle quali vi vorremmo dare informazioni, ovvero che c'è un corso nuovo che sta partendo e già iniziato proprio al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Sì, sta partendo perché ci sarà tempo per iscriversi fino al 20 di novembre, quindi avete quasi un mese ancora. Però oramai è fatta, sì, sì, ci è sarà fatta. Il corso è presentato, è stato presentato ed è un corso per fare le colonne sonore dei videogiochi, perché evidentemente c'è una necessità proprio vera e propria di creare nuova musica per questi videogiochi. Devo dire che nel corso degli anni hanno avuto anche parecchio successo le colonne sonore e sono, credo, anche ben pagate. Non ho verificato quest'ultima informazione, però credo che ci sia parecchia richiesta e quindi di conseguenza. Beh, noi potremmo chiedere al mio amico Max Bottini, in arte Max Gaben, leader una volta dei Gaben, che ormai da anni vive a New York, che ha spesso, come dire, non regalato, ma ha senz'altro messo a disposizione la sua libreria musicale ai vari producer di videogiochi. Quindi potremmo farci raccontare anche magari da lui, sì. Lo possiamo chiamare a New York e farci dire come funziona il rapporto e anche economicamente parlando che cosa si può guadagnare. Magari. Certo, certo, sì, quella è una, ma c'è gente che guadagna con le suonerie dei telefoni. Beh sì, è un mercato che si sta espandendo. Tocca scrivere, capito Bo Marzi? Scrivere e produrre musica per i videogiochi. Questa è la nuova frontiera. Lo faremo anche noi. Intanto vogliamo ascoltare ancora qualcosa da Shantae Khan? Magari, sì, quanto bello. Mi piace. Ma lei canta veramente bene, ragazzi. Sì, benissimo. Benissimo. Chissà se è quel fisico corpulento che si ritrova che l'aiuta. Forse l'aiuta la cassa armonica. Ma sarà Shantae Khan, Soul Empowered, il titolo dell'album. Fruition è il brano. Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. E su YouTube potrete anche andare a scoprire il momento della realizzazione di questo brano intitolato Peace of Mind con Little Dragon, alle prese con una veterana come Faith Evans. A me piace Faith Evans. Sì, bravissima. Tantissimo. Sai di chi è lo studio? No. Di Rafael Sadiq. Rafael Sadiq ha messo a disposizione. Che comitiva, che gruppo, eh? Infatti è il produttore di questo primo brano dei, nuovo dei Little Dragon. Assolutamente da vedere questo video su YouTube. Ma ormai su YouTube le cose vengono pubblicate addirittura prima del supporto discografico. Eh sì, ormai è diventato il nuovo canale musicale per eccellenza. Quindi noi lo dobbiamo dire ai ragazzi. Sì, dobbiamo seguire. Dovete fare soprattutto anche i video, dei bei video. Dei bei video, video interessanti, perché a volte ci sono dei video anche bruttini, però con un'idea che funziona. Sì, infatti, anche a bassa costo, a livello di produzione, però comunque che hanno dietro un'idea interessante. Allora, tromba la domanda, tu che sei un giornalista musicale, mi dovresti dare una risposta intelligente, la domanda te la faccio. È più importante scrivere una bella canzone o fare un bel video? Ti è piaciuta questa, Bomarzo? Vediamo la risposta. Bah, se si riesce a fare entrambe le cose, è meglio. È molto meglio. Ha scoperto l'acqua calda, ha scoperto. Però il video è fondamentale ormai. Attenzione però, questa è un'altra cosa che dobbiamo dire. Attenzione a ascoltare i rapper. Sì, potrebbe rivelarsi attenzione, un problema. Lo dico ai genitori, attenzione ad ascoltare molto i rapper, o il tipo di rapper o il tipo di rap, Francesco, perché? Perché c'è questo studio portato avanti dalla New York University che ha fatto su un campione di 200 soggetti ed è venuto fuori che i personaggi che hanno questi 200 soggetti, quelli che hanno più problemi mentali sono quelli che ascoltano rap. Sul io serio, sì. Ma hai letto anche che tipo di, come è stata svolta l'indagine? Sì, allora, l'esperimento, come è stato fatto? Si sceglieva, diciamo, una playlist. I brani rap che si davano erano Blackstreet, il pezzo dei Blackstreet, No Diggity, Lose Yourself di Eminem. Di solito chi sceglieva in questa playlist questi due brani era quelli che erano, diciamo, i soggetti che erano un po' più borderline, quindi diciamo avevano un potenziale da problemi psicopatici. La volontà dell'università però è quella di allargare questo studio, cioè di aumentare il campione, cioè di farlo su 1000 persone per cercare di approfondire ulteriormente questo tema e per evidentemente anche tracciare, no? In base a quello che ascolti magari su Spotify puoi essere tracciato come potenziale psicopatico. Ecco, negli Stati Uniti sono attenti a queste cose perché ci sono poi lì nella CIA, FBI, dei reparti proprio di profilers, no? Sì, diciamo che anche il sottile il limite tra, appunto, tra chi ha dei problemi mentali e chi poi magari li trasforma in maniera aggressiva. Allora, Chance the Rapper però non credo abbia problemi mentali. No, anzi, io lo considero un vero e proprio genio, anzi voglio esagerare, Bomarzi, un poeta della nuova generazione. Tanto, e poi è tanto bravo quel ragazzo, sì, che è riuscito a vincere i Grammy Awards senza neanche aver pubblicato l'album con una casa discografica ufficiale, assolutamente da indipendente, senza neanche stampare il CD, ha fatto tutto via internet e ha avuto anche, cosa che non fa nessuno, si è presentato in uno studio televisivo per partecipare a un programma di quelli famosi lì in America e ha presentato un inedito. Questo video sta spopolando perché la canzone è bellissima, il brano finalmente ha un titolo perché non ce l'aveva fino a qualche giorno infatti fa. Infatti è stata presentata senza titolo. Come si intitola il brano? Si intitola First World Problems. Quindi il primo problema del mondo, sì, sarebbe quello. I primi problemi del mondo. Allora, problems, quindi con plurale. E, con lui c'è anche un altro campione di musica però. Sì, giovanissimo, Daniel Caesar. E poi ci sono anche alcuni componenti dei Social Experiment, come ad esempio Donny Trumpet, che suona la tromba. Eccolo qui, Chance the Rapper, per chiudere la prima parte del soundcheck e noi prepariamo lo studio, diamo una bella lucidata perché arrivano due campioni di musica, Sara, Jay Morris e Antonio Forcione, per fare anche qualcosa dal vivo qui al soundcheck di Radio 24. Ci risentiamo fra pochissimo. Soundcheck, il suono della musica. Siamo pronti per la seconda parte del soundcheck qui su Radio 24 dal Groove Master Studio e sono felicissimo di abbracciare, di salutare e di vedere in carne e ossa i miei amici, meravigliosi musicisti che si sono esibiti, come dicevamo prima, l'8 di ottobre a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, con un concerto spettacolare con il quale hanno presentato il repertorio e non solo di Compared to What, questo è il titolo dell'album che hanno realizzato insieme, due campioni di musica ai quali io voglio personalmente molto bene. La mia amica Sarah Jane Morris, welcome at the soundcheck, Sarah. Piacere. Piacere, che bella che sei, che sorriso che ha. E Antonio Forcione, Madame Messier, uno di... Gran piacere, buonasera. Io credo che tu da anni rappresenti, insomma, l'eccellenza italiana nel mondo sulla chitarra, insieme a altri colleghi, naturalmente. Un fantasma qua in Italia, però il fantasma torna ogni tanto. È vero, sei il fantasma dell'opera, ma il fantasma della chitarra, esatto. Perlomeno in Italia, no? Sì, beh, è sempre un piacere comunque tornare. Poi con Sara è un'altra cosa, eh. Allora, io vorrei intanto chiedere a Sara di raccontarmi la vostra storia. Tell me something about this production compared to What. Okay, well, and your collaboration with Antonio. Well, Antonio and I were aware of each other for many years. We were playing the same venues on different nights. But it took us to both be asked to guest with a wonderful young singer-songwriter's launch of her album. Allora, hanno suonato spesso, si conoscono da tanto tempo, hanno suonato spesso nello stesso locale, ma in serate differenti, finché non si sono ritrovati insieme sul palco di un amico. Her name is Sarah Gillespie. Sarah Gillespie, yeah. And we did something we've never done before. As musicians, you will understand that we turned up early for soundcheck. It's unheard of. And so we went for a drink together, and I had the coffee and he had the tea, or the opposite to what you'd imagine. Eh sì, perché gli italiani prendono il caffè, invece è successo il contrario. And we discovered that we had even more in common than we thought. Sì. Antonio had just finished recording an incredible project called Sketches of Africa. Eh sì, quindi chiacchierando dietro una tazza di caffè e di un tè hanno capito che avevano molte cose in comune. Antonio aveva appena finito di lavorare su un progetto africano. In Africa, sì sì. Ah, proprio in Africa lo sì, hai realizzato. Sì, è stato in Sudafrica e in Zimbabwe. Quindi ci sono molti artisti africani. E vabbè, parlavo di questa cosa africana, poi ho visto che Sara ha aperto gli occhi dicendo Africa, sto per fare io un disco sull'Africa, quindi avevamo questa cosa in comune. Quindi in common the passion for Africa. Yes, also. Because I was just starting a project called Bloody Rain, which I launched here in Rome a few years ago, and once again I had written a song about Zimbabwe, about Robert Mugabe, and through Antonio I met Esca, who was a Zimbabwean singer, and I met through Antonio Seko Keita, who played Cora on my album, and Soweto Gospel. I knew them before. Sì, insomma, la passione per la musica africana, gli strumenti e we tutto both il resto. Used the same musicians at this, and we were working in similar projects era at the similar time. Era incredibilmente parallela la situazione, quindi io ho fatto sentire uno dei miei brani dedicato a Zimbabwe, e a lei è piaciuto tantissimo la produzione, il brano, quindi ha detto facciamo qualcosa insieme. E da lì, insomma, e quindi facciamo qualcosa insieme si è trasformato in Compared to What. Well then we decided we would like to experiment and write together, but we didn't imagine that it would be that easy. And you invited me to your home. Sì, praticamente non pensava che poi potesse diventare il tutto anche così semplice da realizzare. È stata una cosa fulminea, veramente. È venuta a casa mia con un fogliettini di carte vecchie, cose con appunti, storie. E mi ricordo che le ha buttate per terra, così, tutte per terra così. Quindi tutti appunti di testi. Tutti appunti di testi, di mezze idee, di storiettine, di cose vere. E ha fatto, vabbè, cosa vuoi fare prima? Allora, lei me lo leggi, insomma, ha incominciato a leggere queste storie, poi ma facciamo questa qua. Io ovviamente avevo fatto già 19 album, ho scritto tanta musica, ho dei cassettini piccoli, no? da rivedere. A lei quello che serviva era un landscape musicale, giusto per la sua voce. Quindi, e per le sue storie. Quasi come realizzare la colonna sonora per dei testi. Film, dei piccoli film, infatti. Ho detto, a proposito di questa cosa, qual è il primo brano? Penso che sia Comfort Zone. Yes. Sono uscito con un basso bellissimo, molto, però quello magari me lo suonate dal vivo, perché voglio anticipare volentieri agli amici che Antonio Forcione ha portato la sua chitarra è una chitarra particolare della quale magari ci parlerai, e Sarah Jane Morris ci farà ascoltare la sua voce dal vivo. Ma adesso io direi di ascoltare qualcosa da Compared to What, e c'è uno dei brani che più mi ha colpito, e Sara mi ha anche raccontato perché questa è una canzone che lei ha dedicato alla mamma. Il brano si intitola I Bear My Soul. Sarah Jane Morris, Antonio Forcione, al soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Sì, e stanno già arrivando tantissimi messaggi qui al Soundcheck di Radio 24 per la partecipazione, per la presenza nel Groovemaster Studio di due colossi della musica internazionale. Italiano di nascita ma residente a Londra, lo ha detto da oltre 30 anni, il chitarrista Antonio Forcione, che io conosco veramente musicalmente da tantissimi anni. Mi arrivavano le prime cose di Antonio a casa 20 anni fa. Io infatti non ho capito chi te le mandava. Non lo so, mi arrivò un DVD, io rimasi a bocca aperta. Tu facevi delle cose con un ensemble etnico molto particolare. Sì, con un quartetto. E hai ancora la passione per quelle cose. Stupendo, sto ancora lavorando. Ho fatto il disco Sketches of Africa. Poi adesso mi sono un po'... L'Africa mi ha mandato un po' a Cuba, perché sai, a Cuba c'è dell'Africa lì. Quindi sto facendo dei progetti con i cubani. A me piace inserire delle storie di viaggio con la musica. Ho detto che la cosa migliore per raccontare storie, le storie che succedono. Adesso sto facendo un altro disco con un trio, col Cora del Senegal, e il percussionista è brasiliano, con cui lavoro già da 15 anni. Quindi ti piacciono e continui a vivere con le contaminazioni da viaggiatore. Sì, perché le cose vicino alla radici hanno sempre una storia un po' più, c'è un po' più profondità sulle storie. È una incredibile viaggiatrice, an incredible traveler is Sarah Jane Morris. Io sono contento di vedere Sarah. Mi ha sempre emozionato sentirla cantare, e sono felicissimo di vederla. È una viaggiatrice, io la incontro in giro per aeroporti. You live in the airports. I do, I live in an airport and I see my musicians more as well than I do my own husband, because I am on the road a lot of the time. Sì, vede più i musicisti che suo marito, lo capisco bene anch'io. But unfortunately we are in the day of Ryanair and EasyJet, and all of those kind of cheap budget airlines are very early in the morning. So it means we're not allowed to sleep as musicians. Ha detto che purtroppo però viviamo nell'era delle low cost, e quindi viaggi si fanno sempre in orari, si parte sempre in orari improbabili, and it's not a good thing for a singer. It's not a great thing because I think I'm on an aeroplane as much as most pilots are, and a pilot has a cut-off age. Sì, esatto. It's not great for your health. Sì, praticamente vive l'aereo più dei piloti, perché il pilota sta chiuso là dentro, e lei sì, stare in cabina è abbastanza complicato per un cantante, fra aria condizionata, microbi e tutto il resto. Hai capito, tromba? Ho capito. Allora io direi però di attivare anche il nostro ingegnere del suono, Riccardo Bomazzi. Siamo a posto? Siamo a posto. Check l'hai fatto? Abbiamo fatto tutto. Ok, allora io direi di fare un grandissimo applauso in studio per ascoltare questa versione live di Comfort Zone con Antonio Forcione e Sarah Jane Morris dal vivo al soundcheck di Radio 24. Yeah! Ma che meraviglia, che emozione, Francesco, Beh, impressionante però. Ma è fantastico. Sì, fanno paura per quanto sono bravi. Che meraviglia, Sara. You are fantastic, Sara. Sara Jane Morris, Antonio Forcione al soundcheck di Radio 24 dal vivo con un brano intitolato Comfort Zone, che è una composizione originale. Tell me something about Comfort Zone. What kind of song? Well, I don't have a television at home. Non ha la televisione a casa. E questa è già una cosa bella, tromba. Hai visto? So I hear my news through late night radio or through friends who connect me to a story. Quindi le notizie gli arrivano dagli amici oppure dalla radio di notte. So you are a radio listener. I'm a radio listener. And I heard this story on the radio and it stayed with me and it haunted me, and that night I found myself writing this song as a poem. Sì, ha sentito questa storia dalla televisione e quindi la sera ha scritto una poesia più che un testo. So what kind the of story? So the story, it was a true story, and it was about a man who was murdering sex workers. Mm. And so in this song I have imagined that I am his last victim. And so I am telling the story, so you see the picture of these women and often why they are there. Quindi era la storia proprio di un assassino, che ammazzava le donne per motivi sessuali. Sì, sì. Okay. No, delle prostitute. Delle prostitute, ok. But it's that sexual violence towards women, that is what I'm really portraying here, and the fear that's involved. Yeah. E la paura. Bene, queste sono le storie che ci racconta Sarah Jane Morris con la sua voce e che troverete in questo album che io vi consiglio, Compared to What, pubblicato da pochissimo. Devo dire la verità, Tromba, noi siamo stati fra i primi nel nostro paese, no? Perché a noi le cose belle non sfuggono. Eh sì, io in realtà mi ero inoltrato quasi per caso in questo disco, avevo ascoltato qualche pezzo e mi sono innamorato subito, infatti te l'ho fatto ascoltare subito dopo. E noi lo abbiamo subito selezionato. Qui invece, Antonio, il primo brano dell'album è un'altra composizione originale, ce la puoi raccontare? Awestruck parla è la storia di un'amica di Sara, che poi mi ha raccontato Sara, che ha questa fantasia immaginaria, si immagina sempre che si innamora con tutti gli uomini che every man she sees. Che trova. Quindi rimane sempre un po'. Lei non lo sa, questa amica di Sara, che Sara ha scritto la canzone dedicata a lei. Non lo sa. Il fatto carino è questo qua. Quindi, all of my friends think it's about them, but not her. Esatto. Ah, quindi tutti gli amici pensano che sia dedicata a lei, ma lei non lo sa. Esatto, è una cosa ironica, bellissima. Quindi è questa donna che si innamora di qualsiasi uomo che trova. Eccola qui. Awestruck al soundcheck di Radio 24, Sarah Jane Morris, Antonio Forcione. Soundcheck, il suono della musica. Dal Groovemaster Studio, il soundcheck di Radio 24, Francesco Tromba è sempre qui nello studio, l'ingegnere Riccardo Bomarzi, ci sono altri amici che voglio anche salutare, i miei amici Riccardo Rozzera e Jonathan Giustini, che tra l'altro in questo periodo sono impegnati proprio con Antonio Forcione e Sarah Jane Morris, perché li accompagnano dappertutto, praticamente siete una sorta di bodyguard degli amici, no? Più dei fratellini, body, insomma, sono un ufficio stampa accreditato. Meglio dire body and soul guard. A body and soul guard, questo mi piace. Allora, mi raccontate qualcosa, Sara e Antonio, della scena musicale a Londra in questo momento. Noi riceviamo London di tutto. Scene. Yeah, I want to know something about the music scene in London. In London. Mm. Well, it's different. It's changed. You know London. We know London well. Yes, Antonio lives there. I moved out of London a few years ago. There are many clubs. Vabbè, questo lo sappiamo, Sara. We know that. But the problem with the music scene in England now and the theatre scene and the whole art scene is that the government no longer funds anything. È come in Italia, ma tutto il mondo e il paese, ragazzi, praticamente dice che il problema dei club e dei teatri a Londra è che il governo non dà più fondi, non stanzia fondi. Quindi io posso anche respirare, mi sento quasi meglio dopo aver sentito questa cosa. So it's a problem about what, Brexit? No, this is what's been going on for years. Ah, quindi neanche per la Brexit, è una cosa proprio che va avanti da anni. Bene o male, Brexit is responsible for many things. But this was happening even before Brexit. Quindi prima della Brexit già avevano deciso di non dare soldi ai club e ai teatri. Bene. And as a result, it makes it very difficult for nearly all of the venues to musically survive and financially survive. Eh sì, dà molti problemi per la sopravvivenza dell'arte e della musica. L'arte sembra che non sia più dispensabile come una volta, secondo me. E secondo me si parla anche che il mondo sta andando a pensare il dio denaro, è sopravvalutato. Ma scusa Antonio, allora perché non te ne torni a casa? Sei andato a Londra per fare la tua carriera. E infatti stiamo parlando esattamente di tornare pensando in Italia. Sì. Ma non ci posso credere. Assolutamente. Io adoro l'Italia, ovviamente vorrei tornare. Ma questa è una cosa buffa, perché noi abbiamo un sacco di problemi. Lo so, però ovviamente torno, ritorno in Italia è un po' diverso adesso, perché vabbè, mi sento anche un po' più coperto, sono riuscito anche a comprare una casa lì a Londra con tutti i sacrifici facendo musicista, certo, sì, certo. Quindi sono, però mi piace un po' di sole, un po' di amici, delle cose italiane mi piacciono molto. E prima anche Sara mi ha chiesto notizie su quanto costano le case, sì, in Italia, non lo so perché. No, forse sì, intenzione. Sì. You asked JJ about the house in Italy. How pricing? Maybe. I mean, obviously, because of Brexit, it's made it a very difficult time for anyone in England. But everybody would like to leave, you know, because it's not. We don't recognize it as being the same place, because suddenly you have you just have this. This sense that everybody's looking after themselves. This it's destroyed community. It's made everybody fearful of each other. Praticamente con la Brexit la gente ha perso il senso della comunità, dello stare insieme. Ognuno guarda agli affari propri. E quindi Antonio sta pensando forse di tornare in Italia. E Sara mi ha detto prima che potrebbe fare un pensierino per comprare una casetta in Italia. Bene. Vi aspettiamo. Intanto io direi di posizionarvi di nuovo ai vostri strumenti, e il prossimo brano è un'altra composizione originale che si intitola All I Want Is You. Antonio Forcione, Sara Jane Morris live at the Soundcheck. Ma che bellezza! Una composizione originale, All I Want Is You, scritta da Sara Jane Morris e Antonio Forcione, qui dal vivo al Soundcheck di Radio 24. E per me è un piacere ospitarli, anche perché hanno avuto un grandissimo successo a Roma, all'Auditorium Parco della Musica. Lo diciamo spesso che i teatri sono in sofferenza in questo periodo, perché i ragazzi soprattutto non si vedono ai concerti. Non lo so in realtà perché non si vedono, non te lo saprei dire, perché in realtà di appassionati alla musica ce ne sono parecchi tra i giovani. Forse, non so, saranno magari i prezzi, ci potrebbe essere magari un'agevolazione per i ragazzi. Ma mi sembra che i prezzi siano tutti abbastanza abbordabili, a parte quando arrivano grandi nomi, tipo se vuoi andare a vedere Keith Jarrett devi risparmiare per 3-4 mesi. Beh, però se magari c'hai 4-5 concerti in una settimana che vuoi vedere, devi scegliere, no? Uno tra quattro. Va bene, che è quello che fai tu. Però tu vai accreditato dal Soundcheck, no, quindi non è problema. Io vado a tutti. Tu vai a anche tutti. Anche pagando. Va bene, allora torniamo alla musica. Si intitola Compared to What, e questo brano è uno dei miei preferiti del repertorio proprio dei Police. È Message in a Bottle, Sara J. Morris e Antonio Forcione al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Ma quanto mi dispiace, sì, perché fra pochissimo lasceranno lo studio, hanno tanti impegni, tanti viaggi da fare. Sara J. Morris e Antonio Forcione, lo ripeto, hanno da poco pubblicato Compared to What, un album favoloso, composizioni originali e anche qualche cavallo di battaglia al repertorio dei Police, ma c'è anche una Blowing in the Wind di Bob Dylan rifatta in maniera impeccabile. Posso dire la verità, tromba? Mi piace molto di più la versione di Sara J. Morris di Blowing in the Wind che quella originale di Bob Dylan. Beh, vale lo stesso discorso per tutti gli altri brani non originali che ci sono in questo disco. Hanno tutti un'interpretazione propria, cioè sembrano dei brani scritti da loro. Ecco, mi stanno chiedendo, mandano dei messaggi per sapere se faranno dei concerti. Io credo che ci sia un concerto al Blue Note a Milano. When do you play at the Blue Note in Milano? Uno e due... Dicembre. Dicembre o novembre? No, dicembre. Allora, l'1 e 2 di dicembre saranno al Blue Note. So what kind of setup you present at the Blue Note? Suoneremo con in quintetto. In quintetto, sì, dimmi, sì, un po'. La violoncellista che suona con me da quasi 20 anni, Jenny the Giant. Poi c'è il basso Harry Thomas e c'è un percussionista Martin Barker che suona con Sara e scrive anche con Sara da molti anni. So Sara, I hope to see you soon. I do hope so too. Maybe we will sing together one day. Maybe, and maybe I can do some pasta. You know, if you need a guitar player. Senza glutine. Senza glutine, hai capito, Bomarzi? Quindi, no, perché... Io celiaca. My sound engineer is a fantastic chef. Ah, fantastico. Per chi va a Cuba, io il 16 novembre sono a Havana, al teatro di Havana. Il 16 novembre, sì, in teatro a La Habana. Sì. E vai da solo o con musicisti cubani? Musicisti cubani. Assolutamente cubani, sì. Quanto sono bravi. Fantastici. Senso ritmico infinito. Ah, incredibile. E allora, scaldate i muscoli, perché adesso ci proponete un ultimo brano. Anche questa è una composizione originale. Si intitola The Sea da Compared to What, ma questa è la versione live. Questo è un pezzo unico che viene proprio fuori dai nostri laboratori qui dal soundcheck di Radio 24. Sarah J. Morris e Antonio Forcione, ancora una volta dal vivo per voi. Grazie, grazie di cuore a tutti voi, grazie a Sarah J. Morris. Thank you very much. So the sea, tell me something about the sea. Well, Antonio and I have been involved in an organization called Side by Side by Refugees in London. Mm. And what we do at our concerts is we collect money. Sì, lavorano per un'organizzazione per i profughi. And I work a lot in Sicily, and I was very aware of that being the first port of call for many refugees coming. Mm. And just wanted to tell that story, really. And so Antonio and I have created, musically, Antonio has created the creaking, creaking ship, the creaking boat, sì, the sea, and I try to create visually the sense of that desperate journey and so many people not making. Allora hanno cercato di ricreare sia col suono della chitarra che con il testo, sì, il senso, legno della chitarra, legno, l'immagine, sì, di questa barca che scricchiola con le onde e con i profughi su, il senso della disperazione dopo un'esperienza fatta anche in Sicilia, dove hanno visto, sì, avete visto proprio gli sbarchi, drammatico, completamente lo so, drammatico. And we are aware that every one of us is only ever two stages away from being that refugee. Esatto, e allora io direi di andare proprio all'ultimo brano. Ci salutiamo con questo. Ringrazio Sarah J. Morris, ringrazio Antonio Forcione, grazie, Francesco Tromba, grazie, Riccardo Bomarsi, Jonathan Giustini in person, Riccardo Rozzera, e anche un saluto a tuo fratello che ti accompagna. Lo abbraccio. Grazie a tutti voi. Dal soundcheck chiudiamo con Superstition di Stevie Wonder, ma questa è la versione da Compared to What. Ci risentiamo domani 19:15, sempre qui sulla nostra radio preferita, Radio 24.